Ok. Aspetta che mi sposto da qui. Ok. Pronti. Bene, siamo con Sergio Ponzio del Cineclub de Tour per parlare della prossima programmazione, in particolare di un documentario di cui ci parlerà lui. Chiaramente, per quanto riguarda i documentari di internazionale, è Free Lunch Society di Christian Todd. Allora, Sergio, ben ritrovato. Grazie Federico, grazie. Allora, c'è un appuntamento prima, sabato, una piccola maratona cinematografica. Sì, sabato partirà il nostro bando di partecipazione alla nuova edizione del nostro festival On the Road. Quindi volevamo festeggiare presentando nuovamente i film vincitori dell'edizione dell'anno precedente, che sono dei film straordinari. Quest'anno, cioè l'anno scorso, abbiamo premiato, o meglio la giuria e il pubblico ha deciso di premiare soprattutto delle produzioni francesi, dei piccoli film, perché sono sostanzialmente tutti dei mediometraggi intorno ai 45-60 minuti, ma realizzati veramente con un'idea cinematografica matura, completa, e insomma sono pronti al grande balzo. Infatti il regista Rémy Mazet, per esempio, che è il regista di Punk a Chien, del film Punk a Bestia, che film vincitore dell'anno scorso, partirà per l'Alaska per girare il suo primo lungometraggio, quindi in qualche modo vogliamo pensare di avergli portato fortuna. Quindi presenteremo i film, cortometraggi e lungometraggi, ci sarà modo di presentare il bando di partecipazione, che è aperto a tutti e che dal giorno stesso sarà disponibile online, quindi chiunque, filmmaker, viaggiatori, vagabondi, persi e ritrovati potranno partecipare, potranno presentare il loro film, cortometraggio o lungometraggio al nostro concorso. Poi il festival si terrà come sempre tra ottobre e novembre di quest'anno. Il giorno dopo, domenica 11 marzo, arriviamo al pezzo forte, questo Free Lunch Society. Ce ne parli? Sì, Free Lunch è uno dei bei documentari che presentiamo quest'anno nell'ambito del ciclo Mondo Visioni, i documentari di internazionale. Sono documentari che trattano temi di geopolitica, di questioni che riguardano la società, il nostro, diciamo, vivere insieme, questioni legate alla globalizzazione, alle migrazioni. Questo è un film particolare anche per il momento, diciamo, per il nostro momento storico in Italia, legandosi un po' forse anche ai risultati delle recenti elezioni, perché qui si parla di una questione che è stata anche dibattuta molto nella recente campagna elettorale, però in una maniera, se vogliamo, diversa e più, diciamo, con un approccio sicuramente più scientifico, e andando a vedere poi, avendo dei riscontri su quello che veramente sta succedendo in giro per il mondo riguardo a questo tema. Si parla del reddito, del famoso reddito di cittadinanza, in questo caso del reddito universale di cittadinanza, quindi un'idea che qualcuno può pensare sia qualcosa di molto recente, invece se ne parla da almeno 60-70 anni, se non di più, tra i primi uomini pubblici a discuterne furono personaggi come Martin Luther King o anche il presidente Johnson negli Stati Uniti, e fu proprio negli Stati Uniti che questo esperimento fu tentato la prima volta in una comunità ristretta negli Stati Uniti, quindi in una società che era, se vogliamo, al massimo della sua potenza economica, e quindi in una fase di totale sviluppo. Quindi ecco, un altro dei luoghi comuni sul reddito di cittadinanza è l'idea che questo possa essere proposto solo in società altamente sviluppate, dove c'è già una situazione, diciamo, di benessere generalizzato, e quindi, diciamo, la torta può essere divisa in più fette. E la realtà è diversa, perché se poi il film, quello che propone, è un viaggio alla scoperta di dove questo esperimento, declinato in vari modi, è stato portato avanti. Quindi si parla degli Stati Uniti, sicuramente si parla della Svizzera, dove c'è stato un referendum, della Finlandia, il Canada, ma poi scopriamo che l'idea del reddito di cittadinanza si sta facendo avanti potentemente anche in paesi in via di sviluppo, come per esempio la Namibia o l'India. E anche in questi due paesi ci sono in atto degli esperimenti, chiaramente localizzati, sicuramente a livello, diciamo, ecco, ancora di proposte, non strutturalmente avviati, ma che stanno dando degli ottimi risultati nelle comunità in cui sono attivi. Quindi l'idea del documentario è un interrogarsi sul fatto se questa politica del reddito di cittadinanza, quindi di dare a chiunque, per il semplice fatto di esistere in una società, un reddito di vita, insomma, che gli consenta di emanciparsi dalla necessità del lavoro, è un'idea che si sta facendo sempre più largo nelle nostre società. E il regista, che è un economista, quindi lui è un documentarista, ma anche alle spalle degli studi di economia, in realtà è anche un appassionato di fantascienza, quindi in realtà l'idea di questo film e anche della sua stessa tesi di laurea gli veniva da una serie di fantascienza, da uno Star Trek New Generation che lui vedeva da ragazzino, e in cui effettivamente le persone non erano costrette al lavoro, non esisteva il denaro, e quando si lavorava era perché c'era la curiosità intellettuale, il desiderio di creare qualcosa, e quindi era un fatto assolutamente, no, separato dalla necessità, diciamo, di dover sopravvivere. Quindi questa è l'idea di partenza. Effettivamente poi nel documentario ci sono, oltre a delle, naturalmente, interviste a esperti, a imprenditori, economisti, personaggi politici internazionali, ci sono anche molti momenti, diciamo, più divertenti estratti dal cinema di fantascienza, dal mondo, diciamo, dei commercials americani. Quindi è un montaggio, un lavoro molto interessante, dove sicuramente si discute di questa questione in una maniera seria, ma che è anche un film divertente e godibile, insomma, che speriamo possa, oltre a dare informazioni, possa anche, chissà, convincere magari qualcuno nel pubblico che forse magari questa utopia potrebbe anche trasformarsi in realtà prima di quanto ci aspettiamo. Sergio, per saperne di più su tutto quello che ci hai detto, ci lasci tutti i riferimenti web. Certamente Federico, il sito del Cine de Tour, quindi cinedetour.it, la pagina Facebook, potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti. E naturalmente vi aspettiamo, e ci saranno poi altri appuntamenti sempre nell'ambito della rassegna internazionale. Ci saranno delle repliche di film molto belli, consiglio film come Stranger in Paradise o altri lavori che discutono sempre di temi di estrema attualità. Però, insomma, vi rimando appunto ai nostri riferimenti online per tutte queste altre informazioni. Grazie. Sergio, un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio a te, grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao.